sta su de dos. Bravissima. Altre volte dici, ma questo abbraccio, cioè non lo senti che ti ho già smollato? Ma mollami, perché non t'allontani. Sei una zecca, una allora, tollina attaccata allo scoglio. Quindi, ma quindi allora che cosa che rende un abbraccio bello e un abbraccio invece che non lo vuoi più, che ti dà fastidio? Beh, se uno è un pezzo di gnocco, una pezza di gnocca, vedi che l'abbraccio ti piace. Voglio vedere io. Prima abbiamo visto una bella lezione di... Cos'è che hai detto giù qui al bar di Radio 24? Una bella lezione di etologia. Di etologia, ragazzi. Che cosa succedeva in questa lezione, Rosita? Succedeva che c'era una bella gnocca e quattro intorno. C'era una bellissima ragazza, che si prodigavano, no? A dargli la chiavetta, a caricarla, a portarle da bere. Lei è fantastica, ma ha un fisico pazzesco. Sì, lei era una ragazza molto bella. E questi quattro uomini che si avvicendavano, sì, attorno a lei. Voglio vedere se l'abbracciavano, se non andava loro bene. Compagne ignare a casa, no? se ce le avevano, insomma, questi qua che forse insomma non si rendevano conto, però era una bella lezione di etologia. Bellissimo. Proprio dal vivo, come effettivamente una donna viene corteggiata. Questo in etologia è, come si dice, è utile perché poi ci si accoppia. E io non so se si sono accoppiati. Quello volevano arrivare con carica la chiavetta, ti do il cappuccino, prendi la brioche. È funzionale alla riproduzione, cioè la femmina deve poi accettare il pretendente, no? Eh certo. Bello, quindi, bello. No, è interessante. Allora, che cosa rende l'abbraccio fastidioso o no? Il ricalco. Cioè, tu devi riuscire a capire come abbracciare l'altro, capendo se è il momento di avvicinarti o no dal suo linguaggio, dal corpo, e capire che tipo di abbraccio, quanto puoi stringere questo abbraccio, quanto deve essere delicato o no, e quando mollarlo. Abbiamo fatto vedere, mi ricordo, un filmato di Jane Goodall che viene abbracciata, sì, da uno scimpanzé, sì, alla nostra, bellissimo, serata di Chiedimi se sono felice. Ecco, in quel momento io mostro scusate come bisogna abbracciare, nel momento in cui lo scimpanzé molla appena l'ha presa, Jane Goodall la molla anche lei. Questa danza, no, dell'abbraccio è quello che rende l'abbraccio speciale. Sagge parole, anche se io ho le mie frenesie, quindi a me piace pizzicare, mordicchiare, appiccicarmi un po' come una cosa. Che può essere tollerato, sì, soprattutto se siamo un bel rapporto. Allora, siate bravi abbracciatori ed evitate, raccomando, di abbracciare i cani che a loro non piacciono. Esatto. Piatti e ciotole. Mara, ci sei? Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Siamo felicissimi di riaverti con noi perché abbiamo deciso di fare questa rubrichetta di menù che tu ci darai, che sono buoni sia per noi esseri umani che per i cani, i gatti, vanno chiunque. Vanno bene per tutti. Ci permettono di condividere un dolcetto, un pasto, una volta ogni tanto o anche tutti i giorni, come vogliamo noi. Ok, allora oggi, quindi, la festa della, esatto, mamma, tu ci farai adesso ci spiegherai una ricetta dedicata alla mamma. Allora, per la festa della mamma e anche per il mio compleanno, così ve lo dico. Auguri! È oggi il tuo compleanno? Oggi è il mio compleanno, io sono anche una mamma, quindi è una festa bellissima per me. Mazza, fantastico! E quindi vi lascio questa ricetta per fare dei dolcetti molto semplici. Uh-huh. E vi occorrono 90 grammi di farina semi-integrale, uh-huh, 90 grammi di fiocchi di cereali, anche mescolati, un bicchiere di frutta secca tritata a piacere, un cucchiaino di riso soffiato, 500 ml di latte di soia, riso o avena, a piacere, quello che avete in casa, 20 g di fichi secchi tritati, una mela o una pera, mezza bustina di lievito naturale, la scorza di un limone tritata, un pizzico, veramente pizzico, di sale e della cannella. È una ricetta molto semplice, per cui mescolerete tutti gli ingredienti insieme, farete delle palline. Se il composto risulta troppo liquido, potete aggiungere della farina semi-integrale oppure aiutarvi con due cucchiai. Sì. Mettete una teglia con della carta da forno, poggiate queste piccole palline e infornate a 180 gradi per 20 minuti. Sono dei dolci morbidi, quindi possono essere adatti sia ai bambini che ai cani anziani. Io ho particolare riguardo ai bambini e ai cani anziani perché è la vita della mia famiglia. E vi racconto un po' perché usiamo questi ingredienti. Quindi, la farina semi-integrale ci permette di eliminare progressivamente o ridurre, diciamo così, la farina 00, che dagli ultimi studi, insomma, non è proprio una... Non fa bene. Non è proprio un alimento sano. I fiocchi di cereali hanno delle fibre che in un certo senso sono già state rotte dal, uh-huh, meccanismo con cui vengono prodotte, quindi sono più digeribili sia per i bambini che per i nostri cani e gatti, così come per i soffiati. I soffiati sono molto digeribili per lo stesso motivo. Io vi ho consigliato di utilizzare i latti vegetali perché sono un'ottima alternativa al latte vaccino. Sappiamo bene che anche i nostri cani spesso non tollerano il latte vaccino quando viene utilizzato nella loro dieta, per cui il latte vegetale, sia di riso, di avena o di soia, è un'ottima alternativa. E invece per la famiglia umana c'è da dire che tutto ciò che è vegetale non contiene il colesterolo, e ricordiamo sempre che il colesterolo nel cibo vegetale non esiste assolutamente, per cui se abbiamo anche dei problemi di colesterolo alto possiamo utilizzare i latti vegetali o l'alimento vegetale che sostituisce un po' quello animale. Vi ho consigliato i fichi secchi come dolcificante, in modo tale da non usare assolutamente lo zucchero bianco o il saccarosio, perché purtroppo sia per i nostri bambini che per i nostri cani, ahimè, diventano sempre più cicciottelli, quindi cerchiamo di non usare assolutamente lo zucchero per i cani. In alternativa possiamo usare questa frutta disidratata. L'accortezza che vi raccomando è di evitare le uvette. Non succede niente, ma in letteratura c'è qualche articolo che ci parla di una sorta di tossicità, tra virgolette, delle uvette per alcuni cani. Sì, uvette l'avevo sentito anch'io. Poi in realtà per esempio il mio cane le mangia, quindi è una magari una sensibilità individuale, però nel dubbio, visto che non lo sappiamo ancora, non le utilizziamo. Ok. Poi il lievito naturale che io vi ho consigliato è un lievito che origina dall'uva fermentata, quindi è estremamente naturale, in commercio lo trovate con il nome di Cremor Tartaro, segnatevelo bene, Cremor Tartaro, non lascerà mai il sapore di chimico alla vostra preparazione e è veramente anche molto adatto agli intolleranti, quindi visto che ci sono sempre di più queste intolleranze ai lieviti possiamo usarlo in sicurezza, e anche per i nostri animali non dà assolutamente problemi perché è veramente di derivazione naturale, non c'è niente di chimico, quindi che dire, che dire buon appetito, non vedo l'ora di andare a casa e provare. Ecco, poi mi direte come trovate questa ricetta, che io poi posterò sul mio blog, quindi chi magari si è perso le dosi lo può trovare poi su Vega Chef. Bene, poi lo posteremo anche sui nostri social. Grazie Mara, e alla prossima ricetta, domenica prossima. Buona giornata. Tanti auguri, ciao, intanto. Ciao, auguri. Grazie, ciao Mara. Grazie, ciao. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Signori e signori, qui con noi Alessandra Celentano! Salve, buongiorno. Salve a tutti voi! Ma per caso è parente del famoso cantante attore Celentano Moleggiato? Sì, no, è lui parente mio. A proposito, adesso io ho quest'incubo in famiglia, lo voglio dire in diretta a Radio 24. Lo dica. Allora, io nasco come figlia di, e poi a un certo punto divento sorella di, poi a un certo punto divento cugina di. Pensa poi, che poi a volte sono stata anche fidanzata di. Pensa che tragedia! Un incubo. Io sono Rosita di Celentano a questo punto, invece che il De nel cognome. Allora, Alessandra Celentano, nota amante degli animali, ed è per questo che è qui con noi oggi, è anche. Però una grande ballerina classica. Lei è stata la prima ballerina del Later Balletto di Reggio Emilia per 15 anni, Ale? Sì. Insomma, parla quando va da Maria De Filippi. È stata una grande étoile, scusami, è stata una grande maître, perché se sbaglio mi bacchetta. Vedi, allora, maître du ballet, scusami amore, dire fino in fondo, cavolo, sto presentando il mio. Perdonami, vada pure avanti, sentiamo. Allora, sono maître du ballet, è stata maître alla Scala, al Teatro di Roma, di Firenze, di Napoli. Lei prepara tutti i primi ballerini del mondo. Per chi non lo sapesse. Signora, vedo che è informatissima. Ma come mai? Ma lei la conosce questa Alessandra Celentano allora? Di passaggio, so che io ho un bel collo del piede, guardi. Esattamente. Ma guarda, questo è esattamente il punto, perché tu devi sapere che io non guardo tantissimi amici, vabbè, la televisione in genere, no? Però mi era rimasta impressa questa discussione sul collo del piede, che immagino che tutti gli italiani oramai conoscano. Sì, è stato il tormentone per un sacco di anni. Sì, allora, io che da profano e da fuori non conoscevo le cose, dicevo, cazzo, ma tua cugina è veramente una stronza. Ma